Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 14 con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Siamo con Alessandro Fabrizi per parlare dell'evento Una giornata tutta per lei, Virginia Woolf. A Roma, la Casa Internazionale delle Donne, 9 giugno. Alessandro, ben trovato. Ben trovato a te Federico, ciao. Lo presenti? Sì, lo presento. Dunque io sono in realtà l'ultimo arrivato in questa situazione Sì. che nasce da una bellissima idea che hanno avuto Nadia Busini e Elisa Bolchi. L'anno scorso credo che si sono incontrate a Parigi appunto a un evento organizzato dalla French Virginia Woolf Society. Prendendo atto del fatto che praticamente in tutto il mondo c'è una Virginia Woolf Society di quella nazione, di quel paese, hanno detto ma perché non ne creiamo una anche in Italia? E quindi hanno coinvolto altre persone, Liliana Rampello, Yolanda Plescia, Sara De Simone, Alessandra Bocchetti, per appunto creare questa Italian Virginia Woolf Society di cui è presidente Nadia Busini. E così ispirate al fatto che Mrs. Dalloway, il giorno di giugno, esce di casa per andare a comprare i fiori per la sua festa, hanno deciso di dedicare un giorno di giugno, una giornata di giugno tutta a Virginia Woolf. E qui appunto si è creato un piccolo comitato, che appunto con cui ci sono di nuovo Yolanda Plescia, Sara De Simone, Alessandro Bocchetti, Nadia Busini ed io, per organizzare appunto questa giornata tutta per lei, tutta per Virginia. Come sarà caratterizzata? Dunque, è una giornata strepitosa, perché comincia alle 10 del mattino e finisce alle 11 di sera, quindi è veramente un'intera giornata dedicata a Virginia Woolf con eventi di vario tipo. Io, diciamo, sono stato chiamato in causa, credo, per, al di là della grande amicizia che ho con Nadia Busini e con Yolanda Lescia, e per il mio amore per Virginia Woolf, che ho dimostrato nel 95, ormai tantissimi anni fa, mettendo in scena Le Onde, tutto Le Onde, al Teatro 2 di Roma, con un gruppo di attori che torneranno a leggerne una parte. E quindi diciamo, abbiamo deciso di dedicare appunto alcuni momenti a letture delle opere della Woolf, appunto Le Onde, le lettere che scambiarono lei e Pita, Sacco di West, dedicate, alcuni scritti, alcuni pensieri dedicati alla guerra che ha curato Yolanda Plescia. E quindi la giornata sarà un via vai di studiosi, curiosi, amanti della Woolf, attrici, che appunto dalle 10 del mattino insomma, permetteranno di entrare nel mondo della Woolf. La mattina comincia con appunto una cosa che è stata chiamata Virginia riga per riga, per cui appunto Benedetta Bini, Nicola Ingenito, Elena Monafò e tanti altri leggeranno appunto una stanza tutta per sé, commentando riga per riga. E poi subito dopo, nella stessa cura, la stessa attenzione, la stessa formula, si replicherà per le tre chiniere. Poi ci sarà una pausa pranzo, poi ci sarà una proiezione di documentari dedicati a Virginia Woolf e poi altri vari incontri dal sillabario woolfiano, sempre con Nadia Busini, ma Paola Colaiacomo e Rosy Colombo. Poi ci sarà un bellissimo intervento che si chiama Virginia parla ai bambini, fatto da Elisa Bolchi. E poi una cosa bellissima nel pomeriggio alle 5, in cui appunto varie persone, da Leonetta Bentivoglio a Cristina Comencini, ad Alice Rohrbacher, Patrizia Carrano, eccetera, eccetera, diranno, ci diranno perché Virginia Woolf è importante per loro. E questo incontro appunto si chiama Perché Virginia Woolf è importante per me. Poi abbiamo appunto la lettura Guerra, scritte dalla Woolf, e a questa lettura darà appunto voce generosamente Lunetta Savino. E poi avremo un incontro invece sui giardini, e a questo parteciperanno Tantini ed Emanuele von Norma. Dopodiché la lettura della quarta parte delle onde, che faremo insieme a buona parte degli attori che fecero le onde con me nel 1995, più due new entries. Poi avremo un momento musicale con Diana Teiera che canterà Patrizia Cavalli. E poi una cosa molto divertente che si chiama Opere Buone per Virginia, vuol dire che gli artisti metteranno così giocosamente all'asta alcune loro opere per contribuire appunto all'attività della Italian Virginia Woolf Society. Poi c'è di nuovo un incontro con la Woolf sulla comunità di Bloomsbury, al quale parteciperà anche Nicoletta Braschi. E infine, in chiusura, intorno alle 10, immagino, la lettura delle lettere fra Virginia Woolf e Ita, fatta da Anna Bonaiuto e Yahya Forte, che si intitola Adorata Creatura. Benissimo. L'altra caratteristica importante è che tutto si svolge alla Casa Internazionale delle Donne. Decisione era stata comunque presa prima, ma in questo momento ancora più importante, ancora più, come dire, fieri e contenti siamo di essere alla Casa delle Donne, anche perché speriamo appunto di poter portare attenzione sulla Casa delle Donne in questo momento critico, difficile, e infatti comunque in questa occasione l'ingresso alla giornata avverrà tramite tesseramento, ovvero sono tante persone che hanno già la tessera della Casa delle Donne e quelli che non l'hanno saranno invitati a farla a un prezzo ribassato, minimo, e per gli studenti ancora più ridotto, proprio per contribuire alla salvezza, vogliamo dire, di questo posto così importante per Roma. Benissimo. Allora, ci dai anche i riferimenti web per saperne di più sulla giornata? Beh, Non li so. che io sappia, c'è una pagina evento Facebook. Sì, c'è una pagina evento Facebook dove è riportato tutto il programma che io ho noiosamente elencato, ma con anche insomma vari interventi. Però intanto c'è l'evento Facebook, una giornata tutta per lei, Virginia Woolf. Esatto. Poi c'è la pagina Facebook, l'Italian Virginia Woolf Society, dove ci sono tutti i dettagli sulla giornata e approfondimenti. Perfetto. Allora Alessandro, un abbraccio. Ricordiamo una giornata tutta per lei, Virginia Woolf, a Roma, alla Casa Internazionale delle Donne, il 9 giugno prossimo. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci Viva il presto. lupo, a presto, vi aspettiamo. Ciao. Siamo con Antonio Rezza per parlare del nuovo rientro in televisione insieme a Flavia Mastrella, La tegola e il caso, quando la scena è servita su Rai 3 dal 4 giugno. Antonio, ben ritrovato. Ciao, ciao a tutti. In prima serata, giusto? E la prima serata è quella delle 8? Sì, dipende, ognuno penso che abbia una concezione sua della prima serata, no? Le prime serate vengono decise dagli orari televisivi, è abbastanza triste. Comunque sì, è prima serata, azzarderei primissima. Senti Antonio, spiegaci cos'è La tegola e il caso. Ma è un progetto che noi avevamo elaborato una quindicina d'anni fa, poi finalmente ci è stato fatto fare. E entriamo nelle case, portiamo delle performance, montiamo delle parti di spettacoli, di opere già fatte nelle stanze che troviamo, cucina, soggiorno, bagno, dove troviamo, e facciamo vedere la performance a chi abita la casa. Non c'è nessun accordo, non conosciamo le persone che ci ospitano, non sanno quello che devono fare, quindi è una cosa veramente esplosiva, perché poi loro fanno le performance al posto mio, poi vengono intervistati, è un tentativo di scavalcamento della messa in onda, cioè la televisione entra camuffata da performance nelle case prima che ci arrivi come mezzo tecnico. Quindi diciamo, arriviamo prima della televisione sotto forma di televisione. Anche a livello concettuale è un qualche cosa di molto difficile da spiegare. Praticamente citofonate e vi presentate, questo è. Ma è semplicissimo, non è che citofoniamo perché nessuno ti fa entrare in casa sua. Abbiamo dei ricercatori che hanno allertato alcune famiglie o persone dicendo arriverà qualcuno a fare delle interviste. Però le persone non sanno né che siamo noi, né che siamo gli Eflani, né che arriviamo con una troupe di 9 persone, né che facciamo un pezzo di spettacolo, né che lo devono fare loro, né che vengono intervistati. Cioè, la spontaneità è integra in un momento in cui la televisione racconta solo attraverso talent, reality, cose finte e false, e noi preserviamo la spontaneità perché è la carica dirompente di ogni forma di comunicazione. Si tratta di un format di un'ora, di mezz'ora? Dura 12-13 minuti ogni sera, dal lunedì al venerdì, tra le 8 e 10, 8 e 20. Quante puntate sono? 10? Sono 10 puntate. 10 puntate. Che quindi già avete realizzato e state montando. Realizzato e stiamo soltanto facendo le trascodifiche per i formati che vengono portati poi per la messa in onda. Abbiamo già fatto tutto, anche Ivan Bellavista nelle performance di Fratto X, di 714, Photo Finish, insomma. Quindi siete voi tre, Flavia, tu e No, Ivan. Flavia fa cura le immagini insieme a Marco Tania, Barbara Faoni, poi c'è Simonetti e Massimo Simonetti all'audio, e siamo stati aiutati da Emanuele Andreani, che è il delegato della RAI, insomma, poi i ricercatori sono stati Chiara Crupi, Andrea Fogli, Ivan Bellavista, Marianna Camillò, quindi Andrea Zanarini, Daniele Derlezza, Patrizia Puddu e Leon Ferreira, questo è il nostro Senti Antonio, dicevi un progetto di 15 anni fa, però adesso lo avete realizzato in quanto tempo? Tempo avete impiegato per staff. Ci questo? abbiamo messo 3-4 mesi, ma più la gestazione, Certo, più il certo. tempo per entrare. Visto che siete in fase di montaggio, che bilancio di questa esperienza? Che avvicina, semmai noi ci fossimo allontanati, questo non è mai avvenuto, all'animo popolare di ogni persona. Quindi insomma, è chiaro che a noi piace, non l'avremmo fatto se non ci piaceva. La scelta di questo titolo? Ma è ispirato alla regola del caso di Munari, no? Munari ha teorizzato spesso che il caso è un grande alleato se diventa sistematico, quindi noi abbiamo messo la tegola e il caso perché il caso resta, la tegola è l'emblema della casa. E quindi niente, il sottotitolo è così, non è champagne come il titolo, infatti si chiama sottotitolo. Senti Antonio, tutte le informazioni per saperne di più sul vostro sito? Sul sito della RAI, insomma è un grande giorno, erano 18 anni che facevamo televisione, quindi diciamo è quasi un periodo maggiorenne. Quindi Senti. siamo, chi è nato quando noi abbiamo fatto televisione è maggiorenne adesso che la rifacciamo. Per chi Ecco questo. perdesse la diretta c'è poi il podcast. No, sempre su Rai Play si chiama, no? Sì. Su Rai Play le puoi vedere, anzi bisogna vederle lì e lì. Bisogna far schizzare gli ascolti dove nemmeno più possono essere raccolti. Benissimo, ti lascio continuare a lavorare, Antonio. Ci sentiamo la settimana prossima, noi facciamo un bilancio delle 35 puntate, va bene? Perfetto, perfetto. Allora ricordiamo. Grazie a tutti. La tegola è il caso quando la scena è servita su Rai 3 a partire dal 4 giugno con Flavia Mastrella e Antonio Rezza in TV. Grazie. Ciao Antonio, un abbraccio. Siamo con Vania Castelfranchi, autore e regista dello spettacolo Candidu, ovvero Morte dell'ottimismo, al Teatro Euclide a Roma, 8 e 9 giugno. Vania, ben trovato. Grazie, buongiorno a voi. Ce lo presenti? Il Candidu è un progetto molto ricco che nasce in realtà 6 anni fa, dall'ultimo viaggio che il gruppo IGRAM, il mio gruppo di ricerca, ha fatto in Brasile tra i popoli indigeni Mashakali e Guarani Kaiowá e poi nelle favelas di Rio de Janeiro e di Belo Horizonte. Sì. Sì. È un progetto quindi che ha una lunga storia e tra l'altro noi cerchiamo in questo spettacolo in qualche modo di mettere dentro anche tutte le nostre esperienze di viaggio, quindi appaiono anche citazioni dei nostri viaggi in Africa, in Malawi, in Uganda, il viaggio in Mongolia, in Indonesia, in qualche modo rappresenta un pochino per noi una somma, è un momento forse di maturità del gruppo, per cui insomma è uno spettacolo dove vogliamo mostrare diciamo, un nuovo inizio per me del gruppo Igramul e dei prossimi viaggi futuri. Sì. Allora, si parla, ci sono molti accenni di viaggi, e qual è il racconto? L'idea è questa, partiamo dal Candido di Voltaire, che comunque è un'opera filosofica, e dal presupposto che ci troviamo dopo la fine dell'opera del Candido. Quindi la figura di Candido è scomparsa, Candido è morto, si è ritirato nel suo giardino, come dice alla fine dell'opera volteriana, e lì è morto. La morte di Candido rappresenta un pochino la scomparsa dell'ottimismo proprio sul pianeta, e per noi l'ottimismo è abbinato all'acqua. Quindi il pianeta si è desertificato, l'acqua è finita. È rimasto soltanto un piccolo rigagnolo d'acqua proprio nel punto dove Candido è morto, e quindi dei monaci che vengono simbolicamente anche loro da varie parti del mondo e rappresentano appunto i nostri viaggi, giungono a questo giardino dove Candido si è lasciato morire per cercare di riportare in vita l'ottimismo che è scomparso e quindi in qualche modo salvare il pianeta, forse riportare anche l'acqua sul pianeta. Sì. Da dove era partito tutto? Era partito dall'idea di, portando, quando noi siamo andati in Brasile, portando il Candido di Voltaire in Brasile nelle piazze, nelle strade, nelle favelas e poi in città e diciamo, nelle riserve indigene, il cercare di capire meglio il concetto dell'ottimismo volteriano attraverso proprio la vita dei popoli indigeni, che dal nostro punto di vista rappresentano molto l'ottimismo che Voltaire mette nell'opera. C'è un paradosso nel Candido di Voltaire, molto interessante a livello filosofico, è come se il Candido fosse stato scritto per sconfermare quel candore, per l'appunto, quella visione del maestro di Candido, in realtà di Pangloss, e farla rivelare come una beffa, uno scherzo, in qualche modo un malfunzionamento del pensiero. Invece nell'opera di Voltaire, Pangloss, il maestro di Candido, sì, è una sorta di truffatore e quindi cade in quel tipo di pensiero, ma in realtà l'ottimismo di Candido rimane vincente, intoccato e non è definibile. In qualche modo per noi è esattamente il modo in cui vivono i popoli indigeni, è una sorta di resistenza passiva dove tu sei in grado di ascoltare i cambiamenti del mondo e fai una rivoluzione nel piccolo, accettando anche alcuni cambiamenti, non per forza cambiandoli o bloccandoli, e vivendo molto in questo ascolto del flusso delle cose, sapendo che in qualche modo tutto, c'è una sorta di Pantarei, tutto muta e quindi a volte è anche inutile lottare per cambiare dei piccoli dettagli che comunque vinceranno. Questa logica dei popoli indigeni è meravigliosa ed è quella che li fa vincere in moltissimi casi battaglie impossibili da vincere contro le grandi multinazionali. Noi abbiamo visto i Mashakali o i Saperemawu in Amazzonia che combattono contro la Coca-Cola, la battaglia contro le dighe. In realtà il loro modo di combattere è molto particolare per noi occidentali ed è per me definibile con questo candore incredibile, questo ottimismo. Vania, ci racconti anche un po' dell'esperienza Igramul? È nato tanti anni fa a Roma, noi siamo usciti dall'Accademia Silvio D'Amico, quindi come un gruppo abbastanza classico, insomma con uno studio tutto accademico per l'appunto, e appena finito lo studio in Accademia abbiamo tradito tra virgolette, i maestri e quindi abbiamo cominciato a fare una ricerca verso il teatro della crudeltà di Artaud, facendo i cenci di Artaud, verso la patafisica con l'Ubu Re di Alfred Jarry e poi verso il teatro antropologico e soprattutto l'impegno sociale, l'impegno politico e il teatro terapeutico, quindi lavoriamo da 20 anni con il centro di salute mentale, con i matti, con il carcere di Rebibbia, in tutte quelle realtà dove in qualche modo il teatro ritorna ad una radice antica, cioè da un lato alla sacralità del gesto teatrale, dall'altro lato all'atto politico e terapeutico, per cui il teatro serve come riunione di massa proprio di popolo, di genti, di tutte le classi sociali, di tutti i livelli culturali, di tutte le religioni e razze, per rimettere in discussione il sociale e riscriverlo. E quello abbiamo praticato creando un teatro a Roma, appunto in periferia, quindi in zona praticamente San Basilio. Abbiamo costruito un teatro 12 anni fa, che è ancora attivo, che è il nostro teatro Igramo, dove tra l'altro questa sera va in scena uno spettacolo appunto legato alla resistenza, ai partigiani, alla storia della liberazione, diciamo, della lotta partigiana, e quindi continuiamo a fare spettacoli anche lì legati a questa poetica anche politicizzata del teatro. Poi abbiamo aperto anche una scuola di teatro a Roma, a San Giovanni, dove pratichiamo il nostro metodo che si chiama Esoteatro, che è questa appunto pedagogia teatrale molto volta al rinnovamento del teatro e della società attraverso una pratica attoriale molto fisica, molto attiva. Pensiamo che non sia un oggetto intellettuale il teatro, e che sia il corpo dell'attore a cambiare il mondo realmente. Ok. Senti, allora ricordiamo l'appuntamento con Candidu, ovvero Morte dell'ottimismo, al Teatro Euclide a Roma dall'8 al 9 giugno. Vania, in chiusura ci lasci anche tutti i riferimenti internet per saperne di più? Vi invito a vedere, se potete, entrambi gli spettacoli, perché questo spettacolo, essendo uno spettacolo politico, nasce dall'idea che la scelta muta la materia delle cose, quindi è uno spettacolo dove il pubblico può scegliere cosa vedere ogni sera. Lo spettacolo integrale dura 3 ore, ma quello che il pubblico vedrà dura solo 70 minuti, quindi il pubblico sceglierà ogni sera cosa vedere dello spettacolo, proprio perché è una responsabilizzazione da parte del pubblico e una delega al pubblico che, se vogliono rinnovare l'ottimismo, devono agire e non essere mai passivi in qualche modo. Quindi rinnoviamo a tutti la voglia di venire entrambe le serate. Per vedere maggiori informazioni bisogna andare sul nostro sito www.igramul.net oppure cercare su Facebook Teatro Igramul, e altrimenti c'è il nostro numero, diciamo, dell'ufficio dove prenotare biglietti, che è il 327-1974-360. Vania, un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Grazie mille, grazie a voi, ciao. Siamo con Nicoletta Giberti, direttrice del Festival Fiaba, dal 7 al 17 giugno a Modena, quinta edizione. Nicoletta, ben trovata. Ben trovato, grazie. Allora, raccontiamo cos'è. Sì, allora, il Festival della Fiaba, quest'anno ormai alla quinta edizione, nasce con l'intento di restituire un po' alla Fiaba il suo originale target di riferimento, che sono gli adulti. E per questo siamo unici su tutto il territorio nazionale, e la volontà è stata proprio quella di rindagare questo genere, riprendere le fiabe della tradizione originali e quindi restituire un po' tutto quello che la fiaba di potente, magnifico, ha da donare a tutti quanti, che insomma nel tempo è stato un po' dimenticato, edulcorato, censurato e quant'altro, ecco. Come si sta sviluppando negli anni? Allora, la quinta edizione ha la caratteristica, come l'hanno avuta anche la terza edizione e la prima, di essere in un luogo nuovo, nel senso che noi ogni 2 anni cambiamo spazio. È una mia esigenza proprio personale, nel senso che si ritrovano nuovi stimoli, e quest'anno approdiamo nel cuore della città di Modena. Uno spazio straordinario, un complesso fatto da un chiostro, da diversi giardini, dove dentro ci sono delle piante centenarie, tra cui un leccio meraviglioso e un banano, unico in tutta la città, perché a Modena i banani non crescono. E questo spazio ci ha già regalato grandi emozioni in questa fase di allestimento, perché comunque il leccio è un albero che con le fiabe si sposa molto bene, perché è al confine tra il sacro e il profano, e tra il bene e il male, nel senso che è stato dedicato ad Ecate. Sotto il leccio spesso si tenevano in sabba delle streghe, ma nello stesso tempo con il suo legno sono stati fatti i crocifissi degli altari più importanti del mondo. Quindi insomma c'è questa ambivalenza che si sposa benissimo con il tema della fiaba. E come ogni anno l'ingresso al festival è gratuito. Nella prima parte si incontrano le botteghe degli artigiani, il punto di ristoro. Le botteghe degli artigiani sono delle cucine vere e proprie, cielo aperto, dentro delle casette, dove è possibile vedere gli artigiani all'opera, e questo predispone il pubblico all'ascolto. Poi c'è tutta una parte invece dove è previsto un biglietto a pagamento, dove si partecipa a tutte quelle che sono le arti performative, dagli spettacoli, i concerti, le performance e chiaramente le fiabe. Al festival quest'anno verranno narrate 26 fiabe da 9 narratrici, 3 ogni sera, tutte differenti, e abbiamo per la prima volta anche le fiabe dei racconti di Basile e le fiabe italiane di Calvino. Senti, per quanto riguarda le fiabe, ti dico, perché poi noi qualche anno fa avevamo una trasmissione a Radio Onda Rossa con Ottavia Monicelli, figlia di Mario, in cui facevamo leggere le fiabe ad attori ed attrici. La cosa che ho notato è che c'è un po' un buco rispetto alle fiabe tradizionali arrivando all'oggi. Molte delle fiabe a cui si fa riferimento sono molto datate. Sì, c'è un buco nel senso che sai, la fiaba comunque appartiene alla tradizione. Se andiamo poi a vedere le fiabe originali, quindi non d'autore, ancora di più, per capirci, le fiabe dei Grimm, insomma, che sono Sì, state proprio esatto. raccolte dal folklore. C'è un buco perché si è persa questa abitudine meravigliosa che c'era un tempo tra gli uomini di incontrarsi e raccontarsi della vita. Le fiabe nascono così, nel momento in cui ci si incontra, si condividono le esperienze del vivere, che si condiscono anche di aneddoti legati alla superstizione, legati un pochino ai fetici, e abbiamo perso questa abitudine. E una dei propositi del festival è anche proprio quello di ridare la possibilità alle persone di incontrarsi dal vivo, quindi non soltanto sui social o attraverso, insomma, canali differenti, e scambiarsi opinioni su quello che hanno appena visto, su quello che andranno a vedere, anche perché ogni serata di festival è strutturata a livello proprio drammaturgico, con una conferenza all'inizio, quindi una parte più teorica, e appuntamenti invece successivi che sono proprio studiati in ogni serata per dare un filo conduttore al pubblico che li segue. E comunque sì, le fiabe purtroppo si sono un po' smarrite. Diciamo che da 5 anni a questa parte cerchiamo di ridare voce a questo meraviglioso patrimonio che abbiamo. Ecco, in questo senso avete scoperto nuovi autori, autori interessanti anche a livello internazionale che proponete nelle vostre edizioni? Nel senso che noi abbiamo appunto queste conferenze che aprono ogni serata di festival e spesso vengono degli scrittori, quest'anno uno per tutti, Mario Ferraguti, che è una persona che si è occupata tantissimo proprio della ricerca di tutto quello che è il folklore del nostro territorio pedemontano, di tutto l'Appennino tosco-emiliano. Lui parlerà dei folletti, parlerà delle grandi curatrici e guaritrici dell'Appennino, e i suoi libri sono molto interessanti perché hanno quell'elemento onirico, fiabesco, che riporta l'attenzione del lettore a qualche cosa che appartiene alla nostra tradizione, ma che come le fiabe ci siamo un po' dimenticati che c'è. Ecco, proprio in questo senso volevo chiederti, Nicoletta, come mai c'è stato questo passaggio storico dagli adulti a un restringimento ai bimbi per quanto riguarda il pubblico della fiaba? C'è stato questo passaggio perché la fiaba è molto potente e induce l'uomo ad essere libero. Perrault ha messo la morale, ma in realtà le fiabe della tradizione la morale non ce l'hanno e portano l'uomo a ricontattare il suo istinto, le sue capacità di ascoltarsi e capire un po' qual è la direzione che deve prendere. In ogni fiaba si racconta sempre lo stesso accadimento, l'eroe che trova se stesso e sconfigge il drago. Ma non lo sconfigge per salvare la principessa, ma per diventare uomo e quindi trovare il suo cammino. Chiaramente, che cosa è successo? Che un genere così potente, libero, poteva diventare pericoloso, nel senso che poteva creare rivoluzioni, prese di posizione da parte del popolo troppo libere. E quindi che cosa è stato fatto? È stato messo tra le braccia di una nonnina circondata da bambini, sono state cambiate un po' di cose e così si è reso mansueto qualcosa che invece è necessario che ci sia perché ci rende esseri pensanti che possono decidere della propria vita e che cosa fare della propria vita. Quindi è stato questo il motivo per cui dalla più o meno fine del Settecento le fiabe sono diventate un genere prevalentemente per bambini. Stavo pensando mentre parlavi, mentre spiegavi, Nicoletta, che forse il sostituto è stato trovato nel cinema per certi versi, per coltivare l'immaginario. Sì, assolutamente sì. E quando mi dicono: ah sì, allora tu odierai Disney, io dico no, io Disney non l'odio perché è stato un genio, ha preso un genere che era per gli adulti e l'ha riportato all'infanzia, ma chi è che portava i bambini al cinema? I grandi. Quindi sì, a parte questa parentesi di Walt Disney, sicuramente il cinema ha conservato questo aspetto di condividere emozioni molto forti e di portare l'uomo ad avere un pensiero più libero rispetto a un genere letterario che è stato appunto veramente, è come se le fiabe fossero state passate a un certo punto dietro un setaccio pieno di zucchero, perché le fiabe originali sono veramente tanto diverse da quelle che la gente ricorda. Sì, sì, sì. Ecco, in questo senso un'altra curiosità, state realizzando un archivio delle performance all'interno delle edizioni dei vostri festival? Ma guarda, la cosa bella è che il nostro festival propone sempre delle prime nazionali, che poi cominciano a circuitare un po' per tutta l'Italia, poi un po' per l'Europa, e in particolare c'è stata una connubio vincente, la prima edizione del festival tra Fuse, che sono dei ragazzi che lavorano sul visual, e una acrobata che si chiama Elena Annovi, che tra l'altro lei fa proprio parte dell'organizzazione del festival, e loro quest'anno hanno prodotto uno spettacolo che si chiama Doc, proprio sul filone Dios, che fu il primo che avevano proposto al festival, e stanno facendo un tour mondiale, quindi diciamo che è un vanto avere in archivio uno spettacolo che poi è stato, diciamo così, il germe da cui è nata una produzione così importante, ma come tante altre cose che poi hanno continuato a circuitare, ci sono stati spettacoli come La Bella Addormentata che in una prima edizione hanno fatto una prima proposta e in una seconda edizione il sequel, diciamo, di quello che poteva essere questo banchetto della Bella Addormentata. Quindi sì, un archivio c'è. Audio fruibile? No, l'archivio è al momento privato, okay. Però probabilmente faremo una sezione dedicata sul sito con dei trailer, in modo tale che se qualcuno è interessato, soprattutto i distributori, possano poi contattare gli artisti. Perfetto. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti internet? Certo. Allora, il nostro sito www.festivaldellafiaba.com, lì potete trovare tutto il programma e soprattutto il numero di telefono a cui telefonare per prenotare gli eventi, in quanto l'ingresso, come dicevamo prima, è gratuito, ma gli eventi sono a numero limitato e quindi è bene prenotarli. Benissimo. Allora, un saluto e un ringraziamento a Nicoletta Giberti, direttrice della quinta edizione del Festival della Fiaba dal 7 al 17 giugno a Modena. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, a prestissimo e venite a trovare. Con noi Emiliano di Radio Ciroma per parlare di Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere, che per questo mese è dedicato al radioteatro di Radio Onda Rossa. Dal lunedì al venerdì, a partire da mezzanotte, da oggi 1 giugno fino al 29. Emiliano, ben trovato. Ciao, buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Ci presenti Speleoradio? È un progetto che è nato più o meno 2 anni fa, su un modo nuovo di sperimentare la programmazione notturna per Radio Ciroma, che è la radio comunitaria della zona di Cosenza e dell'area urbana, nell'etere dal 1990. Fino a quel momento, diciamo da mezzanotte, non c'era programmazione, andava la rotazione. Sì. Insomma, a meno che non succedeva qualcosa per cui qualche rotazione sforava, oppure in dei periodi, soprattutto nel passato, c'era qualche programma che sforava anche a l'una e mezza di notte. E quindi abbiamo pensato di utilizzare, di fare un palinsesto passivo, no? Di sfruttare gli archivi di altre radio e archivi sonori in generale e di riproporli di notte. Ci piaceva anche la suggestione di utilizzare un'altra radio, per cui da mezzanotte è come se la radio cambiasse, no? Una specie di Cenerentola. Quindi per esempio questo mese c'è Radio Teatro, non so se è durante la trasmissione o se sono esattamente dei podcast integrali, a un certo punto potrà capitare di sentire Siete sintonizzati su Radio Onda Rossa. Questa cosa è straniante, ci piaceva anche, oppure sentire parlare in lingue straniere. Abbiamo fatto, non ricordo adesso esattamente il mese, mi pare gennaio, un mese interamente dedicato alle radio

Poi purtroppo per problemi, solita storia nella vita nostra, teatranti, per problemi economici, abbiamo dovuto stringerlo in questo modo. Abbiamo in una giornata secca, insomma, il loro debutto, e hanno la giornata, oggi infatti stanno provando, seguirò la prova generale, insomma, in 2 giorni. Purtroppo, anche perché speravo che ci fosse anche più attenzione, che crescesse, non abbiamo mai avuto un giornalista venuto a fare una critica, no? Cioè, si rimane un po' male per la disattenzione, anche perché grazie a te intanto e grazie anche a altre interviste che ho fatto, a parte Strabioli il primo anno che mi ha portato in Rai 2 volte a parlarne e ha avuto più risonanza, però se non si fa un po' di pubblicità anche finisce qui, ce la facciamo, cioè, sì. E questo fa molto male, ecco. Non è cresciuto come avrei voluto. Allora ricordiamo la 10ª edizione di Salviamo i Talenti, premio Attilio Corsini, al Teatro Vittoria a Roma dal 30 maggio al 6 giugno. Un ringraziamento a Viviana Toniolo. Ti do un abbraccio, Viviana, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie infinite, aiutate questa rassegna, venite, votate, scegliamo il teatro di domani, perché questi giovani sono il teatro di domani, ricordiamocelo. Grazie infinite. Grazie. Ciao, a presto. Ciao, ciao, grazie. Siamo con Tiziano Panici per parlare di dominio pubblico al Teatro India a Roma dal 29 maggio al 6 giugno, del quale curerà la direzione artistica senior, giusto Tiziano? Giusto, la direzione artistica è under 25, lo ricordiamo, non vi chiederemo le carte d'identità all'ingresso, sappiatelo, però ecco, la caratteristica del festival è proprio quella di essere programmata, scelta, selezionata da un gruppo di giovanissimi curatori che ogni anno partecipano a questa iniziativa, iniziano partecipando come spettatori, si formano con noi durante l'anno, quindi ecco, il compito del senior, del vecchiaccio con maggiore esperienza è proprio quella di guidarli e capire il senso dell'operazione, e soprattutto però la sfida in campo è che loro diventano i programmatori del loro festival, che appunto programma artisti della loro età, quindi è un'offerta lanciata da giovani per i giovani, questo è il senso. Quante opere ci saranno? Troppe. siamo quest'anno, abbiamo superato i 150 artisti in programmazione. È un festival multidisciplinare per volontà dei ragazzi che l'hanno inventato ormai 5 anni fa. Il primo gruppo Dominio Pubblico appunto è nato tra il 2013 e il 2014 tra il Teatro Argo e il Teatro dell'Orologio, che sono stati gli spazi artefici di questa iniziativa, e poi accolto successivamente dal Teatro di Roma e ospite al Teatro India, dove anche questa 5ª edizione inizierà domani, 29 maggio, e durerà fino al 6 giugno. Gli eventi in programma sono oltre 50 e si parla di spettacoli teatrali, sicuramente tantissimi, ma anche corti e spettacoli di danza, corti cinematografici, arti visive, quindi arti installative, plastiche, fumettistiche, tutte a opera di ragazzi al di sotto i 25 anni, e musica dal vivo, sempre con band e formazioni con lo stesso target di età. Da che ora si parte e quante opere saranno proposte in ogni giornata? Allora, il programma è molto vario, quindi il primo consiglio è andarselo a consultare sul nostro sito, che è www.dominiopubblicoteatro.it. Lo trovate anche sul sito del Teatro di Roma, l'intera programmazione. Domani cominceremo dalle ore 17 con un opening che presenterà un pochino tutti gli artisti della giornata e anche le varie giornate di programmazione, però solitamente noi siamo aperti dalle 10 del mattino fino alle 13, dove però concentriamo soprattutto le attività di laboratorio, e poi il pomeriggio dalle 16 in poi lo spazio è aperto al pubblico, le mostre sono visitabili, trovate sempre qualcuno di noi e siamo aperti fino a mezzanotte. Tendenzialmente si programma una media di almeno 3 spettacoli al giorno, quindi i principali scaglioni sono 18, 20, 21 e 30, diciamo. In mezzo succede un po' di Sempre lo stesso palcoscenico o sono diversi gli spazi? No, no, no, la caratteristica del festival è proprio quella di abitare il Teatro India con tutte le sue possibilità. Quindi i cortometraggi vengono proiettati in una struttura esterna che si chiama India Inn. Le mostre di arte visiva sono invece allestite nel foyer A e nel foyer B. Gli spettacoli vengono programmati in sala A e in sala B e noi siamo al Teatro India fino al 3 giugno. Dopodiché l'ultimo pezzo del festival, dal 4 al 6 di giugno, lo trasferiamo invece direttamente nel foyer del Teatro Valle, dove non faremo pubblico spettacolo, ma continueremo tutta una serie di iniziative legate alla scoperta della nuova drammaturgia Under 25, con una selezione appunto di opere che è stata fatta sempre dalla direzione artistica, presentazione di workshop e laboratori e un incontro pubblico rivolto alla città organizzato in collaborazione con i ragazzi di Zalib di Via della Gatta, che prevede proprio l'incontro di varie realtà artistiche, culturali, politiche romane. Che hanno voglia di incontrarsi, penso che molti conoscano i ragazzi di Scomodo, i ragazzi di Nemo, sono realtà che però difficilmente trovano un'occasione di incontrarsi e provare a progettare tra di loro un futuro possibile insieme. Questo è l'obiettivo dell'incontro del 6 giugno che concluderà appunto questo iter. L'esposizione fra l'altro dei ragazzi di Via della Gatta, che è una delle mostre ospiti, è già frequentabile dal pubblico proprio nel foyer del Teatro Valle. Il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica dalle 18 alle 20. Perfetto. Tiziano, un'ultima curiosità, da quante giovani persone è composta la direzione artistica? La direzione artistica di quest'anno, di solito il gruppo cambia sempre di numero, però siamo sempre tra i 20 e i 30 ragazzi. Perfetto. Considerate che al nuovo gruppo si aggiungono anche sempre gli ex under che invece piano piano stanno facendo di questo percorso la loro vita professionale, perché questo è un percorso comunque di professionalizzazione. Quindi molti di loro sono rimasti, lavorano attivamente, quindi quest'anno comunque questa direzione, questo gruppo di gestori, di curatori under 25 è salito a numero 30. Comunque è un numero importante da tenere vivo e attivo tutto l'anno a seguire questo progetto. I riferimenti web già ce li hai dati, ricordiamo l'appuntamento con dominio pubblico al Teatro India a Roma dal 29 maggio al 6 giugno. Tiziano, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Lunga vita al lupo. Ciao. Grazie Fede, grazie mille. Siamo con Marta Gilmore per parlare del progetto Les Enfants. Marta, ben trovata. Ciao, ben trovati a voi. Ci racconti un po'? Allora, sì, Les Enfants è un progetto che noi come Isola Teatro organizziamo e curiamo insieme a Carrozzerie Not. È un progetto che giunge quest'anno alla sua, diciamo, prima edizione ufficiale o seconda, insomma, abbiamo fatto un esperimento l'anno scorso molto riuscito, in cui appunto abbiamo coinvolto una serie di laboratori scolastici del territorio di Roma che si ritroveranno tutti insieme, quest'anno saranno 140 adolescenti di 6 istituti del territorio di Roma e provincia, da Ostia al centro fino a una scuola di Termini che raccoglie molti ragazzi della provincia. Si ritroveranno al Teatro India, negli spazi del Teatro India, lo invaderanno, diciamo, per partecipare a workshop, laboratori in cui loro si incontreranno, quindi in cui loro verranno mischiati tra di loro, tra ragazzi di varie scuole che non si conoscono, guidati da alcuni tutor che noi abbiamo chiamato, e poi mettere in scena gli spettacoli frutto dei laboratori che loro hanno seguito durante l'anno. È un progetto in cui noi abbiamo coinvolto, oltre a noi, abbiamo coinvolto altri teatranti, nostri colleghi che lavorano con l'adolescenza, quindi ci sarà Dinamis Teatro, ci sarà Monica Mariotti, ci sarà Bartolini Baronio e ci sarà la compagnia Labit con Gabriele Linari. E quindi è un progetto di inclusione, di integrazione, di messa in rete anche, tra operatori teatrali con l'idea che gli spazi del Teatro di Roma siano vivibili, abitabili da percorsi, diciamo, di avvicinamento al teatro, dove si suda insieme, si gioca insieme e si cresce insieme. Questa è un po' l'idea. Sì. Non c'è competizione, non sì. c'è premio per il miglior attore o per il miglior spettacolo, piuttosto la voglia di fare una festa dove il teatro sia un linguaggio comune, che però contemporaneamente è fatto di tanti linguaggi, quindi i ragazzi verranno guidati da attori, registi, ma anche coreografi, musicisti, danzatori, proprio con l'idea di esplorare i tanti modi appunto di fare le cose, no? Sì. E di scoprirsi un po' insieme. Sì. Marta, a questo appuntamento si arriva con un percorso anche di autofinanziamento. C'è una prima data già il 27 maggio. Sì, la Casa Internazionale delle Donne, spazio che da sempre ci ha ospitato e ci ha permesso di portare avanti delle iniziative molto importanti e che quindi oggi più che mai deve essere abitato, promosso e difeso. Noi, presentando questo libro di filastrocche e giocando con questo materiale, finanziamo questo progetto Les Enfants, che è ospitato dal Teatro di Roma ma è interamente autofinanziato da Isola Teatro e Carrozzerie Not, che con un enorme dispendio di risorse, di energie proprio, e molto molto amore portano avanti questa cosa un po' titanica di coordinare 140-150 ragazzi. Proprio a questo proposito avete intitolato la serata Chi ha paura dei ragazzini? Sì, sì. C'è sì. bisogno insomma di futuro, ecco, sarà banale, non lo so, però sicuramente se ne sente proprio il bisogno sì, e quando poi i ragazzini vengono messi in condizione di esprimere la loro creatività, la loro intelligenza critica, invece di trattarli come dei cretini, improvvisamente si respira tutta un'altra aria, ecco, e quindi veramente abbiatene paura e noi cerchiamo di non averne paura, perché invece si sprigiona un'energia vitale che insomma è veramente necessaria, altrimenti questa città. Marta, in chiusura ci dai tutti i riferimenti di Les Enfants, sia le date che sul web, per saperne di più? Allora, Les Enfants ha una pagina Facebook, Les Enfants scritto alla francese tutto attaccato con il punto esclamativo, e lì noi stiamo postando tutte le informazioni. Non abbiamo ancora una pagina web. Sarà il 4, il 5 e il 6 giugno, dalla mattina alla sera noi saremo lì presso gli spazi del Teatro India, dalle, mi pare, 18:30 è l'orario di apertura, in cui si può venire a vedere gli spettacoli dei ragazzi, che sono abbastanza sorprendenti, e il pubblico è invitato a partecipare. Noi saremo lì della mattina, quindi poi invece se qualcuno si vuole affacciare a vedere cosa succede anche da prima, insomma, è benvenuto. Marta, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie, a presto, ciao ciao. Ciao. Con noi Pietro D'Attola, direttore dell'ottava edizione di Inventaria, Festival del Teatro Off a Roma, in quattro diversi teatri, dal 3 maggio al 10 giugno. Pietro, ben trovato. Ciao, ciao. Ci racconti un po'? Sì, allora, che dire, quello che non ti uccide ti fortifica. Allora, l'anno scorso siamo stati costretti ad adottare una formula itinerante, quest'anno l'abbiamo confermata e ampliata, per cui Inventaria, cos'è? Inventaria è la festa del Teatro Off, ormai l'appuntamento di chiusura della stagione teatrale romana, e quest'anno si svolge appunto in quattro teatri, Trastevere, Carrozzerie Not, Argo Studio e Studio 1, in tre quartieri diversi di Roma, ed è probabilmente l'edizione più vasta, più ampia di sempre, con 25 compagnie, 20 serate e 5 sezioni completamente diverse tra loro. Sì, 4 di concorso e una fuori concorso. Esattamente. Ci racconti un po' intanto di come nasce Inventaria e come si è evoluto nel corso di questi anni. Inventaria nasce da una scommessa. Noi volevamo creare un festival fatto da artisti per artisti, quindi senza intermediari, senza velleità di giochi di potere, se vogliamo. E nel corso del tempo è cresciuto focalizzandosi sempre di più sulla drammaturgia contemporanea. Quindi nel giro di un paio di edizioni abbiamo trovato il nostro proprium, che era questo focus sulla drammaturgia contemporanea e sulla varietà dei linguaggi attraverso cui si può esprimere il teatro oggi. Inventario, infatti, ha diverse etimologie, tra cui inventario, ma anche invenio, trovare, aria fresca, che il teatro offre forse l'espressione più viva del teatro. E quindi questo, quindi lo specifico di inventaria è diventato nel tempo, man mano ormai si è confermato questo, un'offerta quanto più contemporanea possibile, sia per argomenti sia per linguaggi. Senti, 400 le proposte arrivate, avete fatto questa scelta, immagino spettacoli da compagnie provenienti un po' da tutta Italia e che attraversano un po' tutti i generi. Sì, appunto dal nuovo circo al teatro sperimentale, al teatro civile, teatro danza pure, o teatro di prosa più o meno tradizionale. Sì, le proposte sono da tutta Italia, anche ormai da un paio d'anni vengono anche dalla Spagna e dall'Inghilterra. Si arriva a Roma per ripartire quantomeno nel resto d'Italia, perché poi i vincitori delle sezioni hanno come premio in pratica una tournée dello spettacolo presso i teatri partner che abbiamo contattato e che ci hanno risposto positivamente, e che si trovano in Liguria, in Veneto, in Toscana, in Calabria, in Sicilia, quindi un po' in tutta Italia. E per quanto riguarda le giornate, come saranno strutturate? Allora, Inventaria quest'anno dura ben 20 serate, non sono tutte di fila, ma sono organizzate a blocchi, quindi appunto abbiamo il primo blocco del 3, 4, 5 maggio a Carrozzieri Notte, poi si passa dal 16 al 19 maggio allo Studio 1, poi si passa per una settimana al Trastevere dal 22 al 27, poi si torna allo Studio 1, poi si passa per l'Argo e poi il finalissimo è di nuovo lo Studio 1, dove ci saranno le sezioni demo e corti teatrali il 9 e 10 giugno e poi infine la premiazione di tutto il festival. Ogni giornata prevede più di uno spettacolo? No, ogni giornata è dedicata a un lavoro. Oppure nel caso dei corti teatrali e delle demo, a quella sezione là, anche perché le proposte durano 12 minuti, 15 minuti, quindi la serata è un ciclo continuo di queste proposte. Perfetto. Ci lasci tutti i riferimenti web per le informazioni? Certamente. Il sito principale è www.dovecomequando.net, è il sito della compagnia Dove Come Quando che organizza il festival. Su Facebook si trovano sia la pagina alimentaria sia l'evento e anche gli eventi dei singoli blocchi che ho appena detto, presso i singoli teatri. Perfetto, allora ricordiamo l'ottava edizione di Inventaria, la festa del teatro off a Roma in 4 diversi teatri dal 3 maggio al 10 giugno. Pietro, un abbraccio, un in bocca al lupo e ci si vede lì. Grazie mille, allora ci conto, vi voglio vedere. Ciao. Ciao. Con noi Michele Santeramo per parlare di Festival d'Era, la prima edizione, storie dal Decamerone, dal 26 maggio al 17 giugno. Benvenuto, ben ritrovato Michele. Grazie, ben trovato, grazie molte. Allora, in diversi luoghi. Sì, Sì, il festival si svolgerà a Pontedera, nell'anfiteatro del Teatro Era, a Castelfalfi nel suo momento finale, è un borgo in Toscana, molto bello e veramente suggestivo, ed è nella discarica di Peccioli, nell'anfiteatro della discarica di Peccioli, il 10 di giugno, l'appuntamento che vedrà impegnati insieme Claudio Santamaria, Anna Foglietta, Marco D'Amore e i tre musicisti. Tu sei proprio l'autore di Storie dal Decamerone, raccontaci un po' di questo progetto. Sì, si è trattato di far questo. La suggestione di raccontare il Decamerone l'ho sempre passata, come faccio sempre, insomma, tutte le cose che scrivo, dall'insegnamento di Eduardo, cioè mettere in scena storie e personaggi tra cui lo spettatore possa riconoscersi. È chiaro quindi che noi ci rivolgiamo, io mi rivolgo sempre allo spettatore di questi giorni. Allora, l'idea di partenza è stata questa. Boccaccio che fa? Prende delle persone, le mette in un luogo isolato perché possano difendersi dalla peste e le mette via a raccontarsi storie. Io ho ipotizzato questo. Qual è la peste nella quale noi viviamo tutti quanti noi? È un malessere più che peste. Ed è un malessere che però non è un malessere tanto di comunità, perché noi siamo diventati tutti molto singoli. E quindi è un malessere personale. Allora, se una persona di oggi si accorgesse di avere questo malessere, come potrebbe guarire da quel malessere? La suggestione è proprio questa qua, cercarsi uno spazio che sia simile a quello inventato da Boccaccio, che ho immaginato come una radura tra le colline, una radura di cui tutti sanno ma che non ha strade chiare per cui ci si arriva, e questa persona che vive questo malessere nell'oggi può andare lì, ascoltare le storie di Boccaccio e da quelle essere guarito. Quindi Boccaccio guarisce il malessere di oggi. Sì. Per quanto riguarda invece Festival d'Era, prima edizione, ci racconti anche di questa avventura? Sì, è stata fino ad ora per me almeno una cosa molto molto bella e positiva. È cominciato, la prima tappa è stata un laboratorio di drammaturgia che io ho tenuto a Peccioli all'inizio di aprile, nel quale abbiamo ragionato di drammaturgia in generale, ma soprattutto poi i partecipanti al laboratorio hanno scritto 10 racconti propri ispirati a 10 novelle del Decamerone, che sono la base sulla quale si muove lo spettacolo che si farà il 17 di giugno a Castelfalfi. Sarà uno spettacolo itinerante, quello, a differenza degli altri 4 che sono invece racconti accompagnati dalla musica. Sì. Quindi è un festival che è cominciato lì, adesso si sviluppa con questi altri appuntamenti, e che io mi auguro, visto che mi sono trovato così bene in quel territorio con quelle persone, mi auguro possa continuare a avere una seconda edizione. Fa riferimento quindi a più strutture teatrali? Sì, a più a realtà comunali, più realtà territoriali, tutte quante coordinate dal Teatro della Toscana, però certamente, come dicevo prima, c'è dentro il comune di Pontedera, c'è anche il comune di Peccioli, che sono i luoghi che ospitano gli spettacoli, c'è Castelfalsi, c'è di Alessia, perché con il Teatro della Toscana ha sovrainteso, diciamo così, a tutta questa organizzazione. Sì, com'è l'atteggiamento di questa realtà territoriale nei confronti della cultura e più nello specifico del teatro? Per quello che ho trovato io è una cosa molto positiva che ho verificato, è che lì c'è ancora un'attenzione, che certamente è un'attenzione al risultato spettacolare, così come deve essere ovviamente, perché poi si va in scena e bisogna mettere in scena qualcosa che abbia una sua propria dignità, però e questa è secondo me una rarità, insomma, ma non per colpe ma per necessità, una rarità in Italia. È una zona in cui si è ancora parecchio affezionati ai processi, ai percorsi, e lì si ritiene alla stessa stregua dei risultati. Quindi avere la possibilità di dialogare con persone che hanno questa attenzione a come si forma un risultato e non soltanto al risultato è certamente qualcosa che poi nutre il lavoro che fai. Michele, quanti artisti sono coinvolti in questa prima edizione? Ci sono 3 attrattori e musicisti, poi ci sono tutti gli artisti che lavoreranno a Castelfalfi, insomma c'è tanta gente, siamo secondo me una ventina di persone. Come sarà strutturata dal 26 maggio al 17 giugno? Sì, allora il 26, cioè domani maggio, c'è una presentazione ufficiale. Sì. Di tutto quanto il festival, e all'interno di questa presentazione ufficiale ci sarà un piccolo prologo che si intitola Un Amore e che sarà interpretato da Marco D'Amore, con anche di un musicista. Il 3 di giugno c'è il racconto Una Guerra, interpretato da Anna Foglietta, anche lì con un musicista, stavolta un violino. L'8 di giugno ci sarà invece Claudio Santamaria con il suo racconto intitolato Il Potere, sempre accompagnato dal violoncello di Francesco Mariotti stavolta. Il 10 di giugno ci sarà a Peccioli, alla discarica di Peccioli, anfiteatro, il racconto che si intitola Il caso dell'invenzione e che vedrà impegnati sia Marco D'Amore che Anna Foglietta, per Claudio Santamaria e i tre musicisti violino, viola e violoncello insieme. Per chiudere poi tutto quanto, il 17 di giugno a Castelfalfi, con lo spettacolo itinerante, raccoglie tutti i racconti scritti dai partecipanti al laboratorio e le 10 novelle di riferimento di Boccaccio. E per avere tutte le informazioni online, dove si può cercare? Si può cercare sul sito Festival Vera, dove tutti gli aggiornamenti sono, suppongo, in tempo reale. Benissimo. Michele, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto! Grazie molto. Ciao. Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 14 con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.